in primo piano. Buongiorno, buona domenica da Giulia Crivelli, una bellissima domenica di sole credo in tutta Italia, giornate lunghissime, ricordo insomma poche settimane fa arrivavo qui, era ancora buio, oggi c'era già la luce ed è qualcosa. Per quanto riguarda i giornali, oggi sono aperture tutte direi una diversa dall'altra, anche perché poi si riferiscono alle interviste o ai rapporti che i singoli giornali hanno. E cominciamo quindi dal Sole 24 Ore, che in realtà apre sul G7, il meeting dei ministri delle finanze dei 7 paesi più grandi del mondo, tra cui naturalmente c'è anche l'Italia, che è in corso in Giappone e come avrete sentito anche già fin da ieri nei vari aggiornamenti nei notiziari si è parlato molto di Brexit, la possibilità che la Gran Bretagna esca dall'Unione Europea, non dalla zona euro in cui non è mai entrata, ma anche della Grecia, come diciamo sempre un problema che sta lì un po' come un convitato di pietra, ma il problema c'è, il debito greco continua a crescere perché non c'è crescita in Grecia dell'economia e quindi un po' di spesa pubblica comunque, anche se è stata drasticamente tagliata, e un po' di welfare il governo lo deve dare a un paese che è profondamente in crisi. E poi si è parlato anche di terrorismo, quindi tutti i servizi e l'analisi li trovate a pagina 459 con un'analisi di Stefano Carrer, che è l'inviato del Sole 24 Ore a Tokyo. Da un vertice all'altro senza strategie credibili. Ma come vi dicevo, ogni giornale oggi ha un approfondimento suo. Quello del Sole 24 Ore è un rapporto, appunto, del Sole 24 Ore con la Fondazione Hume, che indaga l'attuale atteggiamento degli europei verso l'Europa. Così metà degli europei perde la fiducia dell'Europa. E tutti questi risultati li trovate a pagina 2 e 3 e sono sicuramente, danno un quadro di quello che è l'euroscetticismo e che vedremo probabilmente oggi confermato dalle elezioni in Austria. Per esempio a pagina 2 con un articolo, un commento di Beda Romano, così l'Unione Europea perde il consenso degli europei. C'è per esempio un'analisi della stensione elettorale che è sempre più alta, ma anche della diffidenza verso tutte le istituzioni, ma perfino le istituzioni non necessariamente europee, ma proprio le istituzioni politiche. Dalla prima pagina del Sole 24 Ore, come sempre alla domenica, anche l'intervento dell'arcivescovo di Chietivasto Bruno Forte, con un approfondimento un po' sui preti di oggi, quindi il messaggio alla CEI, che è stato nella settimana scorsa c'è stato anche appunto questo convegno dei vescovi italiani, con tutte le novità, anche le reazioni agli ultimi interventi di Papa Francesco. Dal Corriere della Sera invece un titolo, come vi dicevo, oggi si vota in Austria, il Corriere della Sera sceglie di titolare su questo: l'Austria vota sfida sul confine, perché sapete che nonostante le dichiarazioni di pochissimi giorni fa del ministro degli esteri austriaco, no, non è vero, al Brennero non costruiremo muri, non prenderemo misure di emergenza, invece ieri si è di nuovo parlato di 80 agenti speciali al Brennero, che quindi renderanno per definizione la circolazione delle persone meno facile, meno veloce, e quindi un altro modo di dire che Schengen, che è il trattato che prevede la libera circolazione delle persone degli europei all'interno dell'Unione Europea, in realtà di fatto tra Italia e Austria è in profonda crisi. Anche il Corriere della Sera ha un suo approfondimento. In questo caso è un'inchiesta sulle disuguaglianze che rallentano l'Italia, il commento di Dario Di Vico l'indicatore che salta più all'occhio è il tasso di occupazione, che varia moltissimo e che come sappiamo è molto basso tra i giovani e tra le donne. La Repubblica ha un titolo ancora diverso perché è stato annunciato un piano dell'Unione Europea per aiutare l'Africa. 60 miliardi sono quegli aiuti che vengono etichettati come aiutiamoli i paesi a arginare l'immigrazione, in qualche modo auspicando che migliorino le condizioni economiche nei paesi da cui gli immigrati, soprattutto quelli appunto qui parliamo non tanto di chi scappa dalla guerra ma chi scappa dalla fame, dalla miseria, quei paesi appunto dove condizioni economiche diverse si suppone, si pensa potrebbero limitare l'immigrazione. La fotonotizia però è dedicata al volo dell'Egyptair, perché non, veramente non si capisce ancora, c'è un po' di mistero. È stato ieri, avete sentito sicuramente, era stato annunciato il ritrovamento delle scatole nere, poi smentito. E di fatto ancora non si sa, non c'è stata una rivendicazione terroristica, questo è un altro dato certo, però non ci sono neanche ipotesi concrete e confermate o dalla Francia o dall'Egitto o dalla compagnia aerea, che è l'Egyptair, su quali siano state le cause. Il Messaggero è un titolo ancora diverso, perché il Messaggero ha un'intervista a Matteo Renzi, che poi trovate alle pagine 2 e 3 di Barbara Yerkov, e il titolo scelto è Renzi si vota a febbraio 2018. Naturalmente il Presidente del Consiglio ha parlato di moltissime cose, ma anche appunto di queste prossime elezioni politiche, che lui non vorrebbe anticipate prima della data appunto del febbraio 2018. Ma naturalmente tutto è adesso ci sono le altre due importanti scadenze elettorali: la prima il 5 di giugno con i voti nei comuni, molti comuni importanti italiani, tra cui Milano e Roma e Torino e Napoli, e però poi naturalmente c'è anche il referendum sulla riforma costituzionale di ottobre. La Stampa ha un titolo simile a quello del Sole 24 Ore, cioè si concentra sul G7 e la Brexit definita una minaccia globale da tutti i ministri delle finanze dei 7 paesi più industrializzati del mondo, però c'è anche un cenno nel sommario al voto di oggi. Migranti, l'Austria alle urne, accusa Roma e invia più agenti al Brennero. La fotonotizia, come potete immaginare, è dedicata alla vittoria della Juventus, che ieri ha battuto il Milan ai tempi supplementari e si è portata a casa anche la Coppa Italia, e tra l'altro è il secondo anno di seguito. Il titolo: Juventus piglia tutto, storica doppietta. A proposito di città al voto, l'approfondimento di Federico Geremica da Napoli, dove parrebbe che in testa, insomma, ci sia il sindaco, l'attuale sindaco De Magistris, e non sembra, potrebbe addirittura, secondo i sondaggi di questi giorni, potrebbe addirittura vincere al primo turno. Napoli, De Magistris senza rivali. L'Avvenire titola su quella che viene definita la battaglia sulla nuova Costituzione, perché ieri è un po' entrata nel vivo in moltissime città. Renzi ha cominciato da Bergamo un po' la campagna per chi dice sì a questa riforma costituzionale, quindi naturalmente Renzi e parte del PD, e chi invece è per il no, come la maggior parte delle opposizioni. Quindi il referendum del secolo, la citazione, quella appunto fatta di una delle cose che ha detto ieri Renzi a Bergamo: serve un sì contro l'Italia degli inciuci, ha proprio detto così. Il Giornale ne approfitta per titolare l'ultimo inciuccio di Renzi. Trame referendum, anche qui una cronaca di tutto quello che di tutte le manifestazioni di ieri, con un editoriale di Alessandro Sallusti. Libero invece, che ha da poco cambiato direttore, non più Maurizio Del Pietro ma Vittorio Feltri, che prima era editorialista del Giornale, titola lettera al presidente dell'INPS, proprio una lettera scritta da Vittorio Feltri, che contesta a Tito Boeri una serie di fatti, tra le quali quella di aver appena trasferito il suo ufficio in uno spazio molto più grande. Lettera al presidente dell'INPS: le magagne della previdenza. Caro Boeri, perché prima di tagliare le pensioni non rinuncia al suo mega ufficio, non smette di regalare assegni e assistenza a chi non ha versato i contributi e non si attiva per incassare 150 miliardi di crediti del suo istituto? Era una delle ultime pagine, le altre le guardiamo dopo la pausa per gli aggiornamenti, tra i quali anche quelli sul meteo. In primo piano. Ancora buona domenica e buona giornata da Giulia Chivelli. Eravamo sulle prime pagine dei giornali, vi segnalo, ci mancava quella dell'Unità, 100.000 sì, questo è il titolo, proprio con il numero. Naturalmente il riferimento è alle firme che sarebbero già state raccolte per il sì al referendum di ottobre sulla riforma costituzionale. L'Unità fa il suo lavoro di giornale di partito, di parte del Partito Democratico, e quindi di cassa di risonanza per naturalmente la posizione di Renzi, che è quella di votare sì a questa riforma sulla quale lui ha detto si gioca anche il suo futuro politico. Quindi buona la prima, boom di volontari e banchetti per il sì all'Italia nuova e per vincere nelle città. E poi vi segnalo l'attacco di un surreale pezzo di Walter Veltroni, che si intitola, che ogni domenica interviene sull'Unità, Pannella e il rischio paura, una serie di capriole in cui si unisce la tragedia aerea dell'Egyptair, i funerali di Pannella, il referendum. E l'attacco è surreale perché, ve lo leggo, qualcuno gentilmente può dire ai familiari delle vittime e all'opinione pubblica cosa diavolo è successo sull'aereo che è precipitato qualche giorno fa nel Mediterraneo. Nessuno lo dice perché in questo momento nessuno lo sa, a meno che naturalmente si invochi immediatamente a soli 3 giorni dalla tragedia un qualche complotto. Comunque questa era la prima pagina dell'Unità. Il Manifesto, un titolo molto critico verso Renzi, il mago dell'inciucio. A Bergamo il premier apre tra le contestazioni la campagna per il sì al referendum costituzionale. E poi richiamato in prima pagina anche il funerale laico di ieri, che si è svolto ieri a Roma, il lungo addio laico a Pannella nella piazza delle mille battaglie. E poi vi segnalo la prima pagina della Gazzetta dello Sport, che come potete immaginare è dedicata alla vittoria della Juventus, di cui abbiamo detto, ha vinto per il secondo anno di seguito la Coppa Italia battendo il Milan all'inizio dei tempi supplementari, è sempre Juve. Andiamo alle pagine interne dei giornali, torniamo sul Sole 24 Ore. A pagina 6 trovate una, a proposito di quello che chiamiamo insomma fact checking, o comunque le notizie alle prove dei numeri. Si è parlato tanto dei bonus sulle ristrutturazioni edilizie. Alessandro Arona fa un po' un bilancio. I bonus edilizi spingono la spesa in 3 mesi il 50% in più. Da gennaio a marzo sono stati investiti 7.640 milioni contro i 5.109 del primo trimestre 2005. Quindi la conferma che questo tipo di detrazioni, quando appunto uno può dichiarare tutto, essere massimamente trasparente nelle spese che fa e poi però usufruire di detrazioni. E in questo caso appunto gli italiani, come sempre, forse aderiscono quando viene fatta una, no? Si pensa sempre che si cerchino le scorciatoie e le furbizie, quando però viene concretamente offerta per esempio appunto la possibilità di detrarre concretamente delle spese, non c'è nessun problema a farlo a fronte di una trasparenza totale di fatture ai fornitori. Un altro approfondimento, sempre a proposito di numeri, di Isabella Bufacchi, che parla dei BTP, che per tanti anni sono stati un po' il rifugio di tanti risparmiatori italiani. Tassi sotto zero, alle famiglie solo il 5% dei BTP. Scendono a 94 miliardi i titoli di Stato detenuti dai risparmiatori. La quota, pensate, era al 20% prima della crisi, al 35% prima dell'euro. Poi un altro argomento di cui si è parlato tantissimo, il passaggio della legge Cirinnà sulle unioni civili. Poi si era anche detto che il pericolo era di non avere subito i decreti attuativi e che quindi l'applicazione slittasse a dopo l'estate. La prima pagina di Norme Tributi, Giovanni Parente, ci dice: unioni civili in vigore dal 5 giugno. In Gazzetta Ufficiale la legge Cirinnà, al via anche la disciplina delle convivenze di fatto, e però appunto mancano ancora questi decreti attuativi. Entro il 5 luglio dovrebbe essere tutto pronto. E tra l'altro in edicola trovate la guida, una delle guide del Sole 24 Ore, questa si intitola proprio Famiglie e diritti, che parla anche di questo importante aggiornamento sulle unioni civili. Nella pagina dei commenti, la pagina 22 del Sole 24 Ore, la cronaca di un confronto che deve essere stato interessantissimo ieri a Roma tra il ministro della cultura Franceschini e il cardinale Ravasi sul valore della cultura, ritrovare il senso della bellezza, ce lo racconta Antonello Cherchi. Ci spostiamo all'interno del Corriere della Sera, perché è uno degli ultimi probabilmente viaggi istituzionali importanti di Obama, che a novembre ci sono le elezioni presidenziali. Poi sappiamo che in carica ufficialmente il nuovo presidente entrerà in gennaio, però di fatto la presidenza Obama è agli sgoccioli, tanto anche perché, come sapete, ci sono in corso le primarie per capire chi sarà il candidato repubblicano alle elezioni e chi quello democratico. Quindi, dicevo, uno degli ultimi viaggi ufficiali, Giuseppe Sarcina ce lo racconta da Hanoi, il Vietnam a colori aspettando Obama. Poca emozione per la visita del presidente americano, che da oggi appunto sarà nella capitale del Vietnam per recuperare un'area vitale agli affari e contesa tra Russia e Cina. Quindi quei viaggi che sono un po' a metà tra diplomazia pura e diplomazia economica, potremmo dire. Sempre sul Corriere, un'intervista a Roberto Saviano, questa volta appunto Roberto Saviano una pagina intera, non come di solito ha sulla Repubblica, ma sul Corriere. L'occasione è una lunga intervista, ripeto, una pagina intera di Marco Imarisio. Lo spunto sono le polemiche intorno alla seconda stagione di Gomorra, la serie TV. tratta di fatto che prende spunto dal libro che ha reso Saviano famoso. Alcuni dicono che questa serie istiga quasi alla violenza, che rende troppo affascinante la camorra, e anche a Saviano, naturalmente, che tra l'altro ha contribuito alla sceneggiatura di questa seconda stagione, come del resto aveva fatto per la prima stagione, come del resto aveva fatto per il film. Saviano dice: no, non è così. Tutto quello che abbiamo rappresentato accade veramente, per esempio il taglio di capelli di Gennaro, la parlata di Ciro, questi vengono imitati, il mondo criminale si vede rappresentato. Incolparci, dice Saviano, è un atteggiamento omertoso, quindi come sempre Saviano, come possiamo dire, immune all'autocritica. Dunque il titolo dell'intervista è: Gomorra è la realtà che i politici negano, chi cerca il bene guardi un posto al sole, che, come forse sapete, è la soap opera che va in onda da tantissimi anni su Rai 3, credo, sulla Rai appunto, che è sempre, il paragone è facilitato anche dal fatto che anche Rai 3 è fatta, anche Un posto al sole è ambientata a Napoli. Vi segnalo poi dalle pagine interne del Corriere un piccolo corsivo intervento di Luca Mastrantonio sullo snobismo che ancora c'è di molti intellettuali italiani. Lo spunto è ancora una volta Checco Zalone, che ha avuto questo successo incredibile col suo ultimo film, e scrive Luca Mastrantonio: nonostante il successo di pubblico e l'interesse tardivo di intellettuali che vogliono solo godere della sua luce riflessa, Checco Zalone continua a far storcere il naso agli snob, come i giurati dei David di Donatello, sapete, i premi al cinema italiano, che non l'hanno premiato nonostante una certa apertura di orizzonti quest'anno, l'editore Giuseppe La Terza, che ha criticato la presenza di Zalone all'ultima fiera del libro di Torino, dove il comico, adorato da una folla di fan, ha presentato il libro che il critico cinematografico Gianni Canova gli ha dedicato, Cuochi, di cosa ridiamo quando ridiamo di Checco Zalone. Eppure, stando ai numeri dell'editoria, c'è sicuramente bisogno di fenomeni di successo larghi, meritati e di valore come Quo Vado per il cinema, che con i suoi incassi farà probabilmente respirare il settore cinematografico del 2016, a beneficio di tutti, anche di quelli che non sanno riconoscere il valore di un film d'autore. Lo chiamavano Gigrobò, per esempio, di Mainetti, infatti nasce come un'autoproduzione. Lo snobismo nuoce alla cultura più del basso intrattenimento, perché i cinepanettoni passano, lo snobismo resta. Sempre dalle pagine, no, ci spostiamo invece su Repubblica con una bella storia raccontata da Mara Chiarelli. Adotta una famiglia, lo sponsor è il sindaco, questo è il titolo dell'articolo. C'è infatti il racconto di questo network di solidarietà che il sindaco è riuscito a costruire a Bari per aiutare chi è più in difficoltà. Uno degli strumenti per questa iniziativa, che giornalisticamente viene sintetizzata con Adotta una famiglia, è una scatola salvadanaio che viene messa nei negozi per cibo e generi di prima necessità, che poi appunto vanno alle famiglie che ne hanno bisogno. La storia, a pagina 16, Antonio Di Pollina ci racconta: signorine, buonasera, in Rai va in onda l'ultimo annuncio. Questa cosa assolutamente anacronistica che c'era nella nostra TV di Stato delle appunto presentatrici. A fine mese, dopo 65 anni, l'azienda rottama il servizio. Oggi il pubblico usa altri mezzi per sapere cosa c'è in TV. Temo che questo sommario sia anche dovuto al fatto che l'articolo l'ha scritto un uomo, perché non è tanto il fatto che il pubblico usa altri mezzi per sapere cosa c'è in TV, è chiedersi perché devono essere delle donne, che in generale sono tutte tra l'altro molto piacenti, ad annunciare i programmi. A me per esempio piacerebbe, se proprio deve esserci un annunciatore, che fossero non da oggi e non dalla vigilia della pensione, fossero stati inseriti anche dei signorini. Buonasera. Una storia bellissima, la racconta sempre Repubblica, pagina 17, Laura Montanari e Valeria Strambi, nella scuola aperta d'estate, qui imparare una vacanza. È la storia di una scuola a Scarperia, vicino a Firenze, dove da anni i bambini possono andare a scuola anche in luglio. È facoltativo, ma la cosa interessante è, come sanno tutti i genitori che lavorano, che questo aiuta molto, perché se va bene, insomma, e tra l'altro questo probabilmente diminuiranno sempre di più col passare degli anni, se va bene, se hanno 3 settimane di ferie, anche volendole concentrare, spesso vengono concentrate in agosto, con tutti, insomma, i problemi del caso, e perché se i bambini smettono di andare a scuola, diciamo metà giugno massimo, poi bisogna trovare un modo per dargli qualcosa da fare. A proposito di snobismo, molto divertente questa intervista a Aldo Nove, lo scrittore Aldo Nove, sulle pagine di Repubblica, che racconta questo aneddoto. Dice: internet ci stordisce, rincretinisce e impoverisce, costringendoci a vivere in un eterno presente, ma i social non sono il male, sono un mezzo. Io li uso per esperimenti di comunicazione. Sulla mia bacheca Facebook mi diverto ad attribuire a Confucio, naturalmente il saggio cinese considerato uno degli uomini più saggi mai esistiti, frasi di Fabio Volo, scatenando una pioggia di like. La reattività del mi piace guarda le etichette, non i contenuti. Dal Messaggero una storia curiosa, il caso ce lo racconta Federico Guiglia: se in Alto Adige spariscono i nomi degli italiani dai cartelli. Sapete che soprattutto durante gli anni del fascismo i nomi tedeschi in tedesco delle località altoatesine sono stati tradotti in italiano. Ecco, adesso sta succedendo un po' il contrario, almeno in questo comune del Tirolo. Colpo di mano nel comune di Tirolo, dopo tutta la toponomastica è di nuovo in tedesco. Bolzano da tempo cerca un precedente per negare il diritto alle scritte bilingui. Vi segnalo poi, perché è un tema che praticamente è scomparso, anzi non viene proprio trattato dai giornali, quello che sta succedendo in Venezuela. Se ne occupano sia l'Unità con un articolo intitolato "I giorni amari del Venezuela, manca anche lo zucchero", e "Il paese sull'orlo del baratro con un'inflazione a tre cifre e sospetti di golpe". E l'erede di Chavez, il leader venezuelano morto di tumore qualche anno fa, è Maduro, ma veramente non si riesce a far uscire il paese da questa crisi enorme, un paese che comunque avrebbe anche una grande ricchezza, per esempio, di risorse naturali, a cominciare dal petrolio, ma che è sprofondato in questa crisi tremenda. E se ne occupa anche il Manifesto con un articolo di Geraldina Colotti inviata a Caracas: la mobilitazione contro le destre, in questo caso l'angolo è un po' diverso perché ci sono moltissime manifestazioni in questo momento in Venezuela, unione civico-militare per prevenire imboscate, perché quello che si teme adesso è proprio un vero e proprio golpe. Ci fermiamo però un attimo per le informazioni sul traffico. In primo piano. Ancora buongiorno da Giulia Crivelli, ancora insieme per quest'ultima parte della rassegna. Vi segnalo ancora un paio di cose dalle pagine interne prima di passare ai supplementi culturali. Un bell'articolo sull'Avvenire, che parla del lupo che è tornato, ululati sulle Alpi, scomparso nel 1925 e oggi è presente con 23 branchi, soprattutto in Piemonte. Le associazioni ambientaliste esultano, ma gli abitanti denunciano le razzie di bestiame. Esiste un finale diverso per la solita vecchia storia che appunto vede contrapposto l'uomo ad alcuni animali, tra cui il lupo, e che se poi l'uomo si decide a combattere con le armi, naturalmente non ha scampo. Dal Fatto Quotidiano un'intervista a Stefano Parisi, candidato del centrodestra per sindaco di Milano, direi un uomo con molte sicurezze, da quello che emerge da questa intervista di Antonello Caporale, che è intitolata "Se serve a Milano, faccio pure il comune della Coca-Cola". Il riferimento è a una delle ultime domande di questa intervista, dove a Caporale chiede: il comune è senza soldi e Palazzo Marino, che è la sede del comune di Milano, ha l'intonaco cadente. La Coca-Cola si offre di ristrutturarlo a condizione che venga coperto col suo logo. E Parisi risponde: Coca-Cola tutta la vita. E Caporale, poi ironicamente, dice: Palazzo Coca-Cola. E Parisi risponde: tutta la vita, virgola, ho detto. Una del Venezuela si occupa meritoriamente anche il Fatto, con un articolo di Maurizio Chierici, che è un grande esperto di Sud America, e quindi non solo di Venezuela. Qui è più un'analisi di quello che è successo, di come si è arrivati alla situazione drammatica di oggi. Addio agli anni d'oro di Chavez, Maduro è arrivato al capolinea. Paese stremato, cibi razionati, ospedali alle corde e l'opposizione che chiede un referendum appunto per mandare a casa l'attuale presidente Maduro. Passiamo ai supplementi domenicali, cominciamo come sempre dalla domenica del Sole 24 Ore con il breviario di Gianfranco Ravasi, che si intitola questa settimana "Idolatria". La citazione è da un libro di Martin Buber. L'idolatria è quando un volto si rivolge riverente a un volto che non è un volto. Hanno bocca ma non parlano, hanno occhi ma non vedono, hanno orecchi ma non odono, hanno narici ma non odorano. Così l'antico salmista ebreo definiva l'idolo, a differenza del Dio vivente che può dire io sono e che quindi parla e opera. Altrettanto suggestiva è la condanna dell'idolatria espressa dalla formula del rabbi di Koch, che abbiamo desunto dai famosi racconti dei Chassidim di Martin Buber e che Papa Francesco ha citato nella sua prima enciclica Lumen Fidei, che è del 2013. L'idolo ha un volto che non è un volto, detto altrimenti non sa entrare in dialogo, non piange, non sorride, non ama, sarà pure d'oro e capace di attrarre, ma è solo una cosa e non una persona che ti può consolare, emozionare, liberare, amare. Naturalmente tra queste righe e nel significato di idolo ci sta tutto, non soltanto gli idoli religiosi o considerati tali. Il memorandum di Roberto Napoletano mette insieme tanti spunti, si intitola La voglia di riscatto dei giovani, le cose difficili, il capitale della fiducia. Il nostro direttore, nostro di Radio 24 del Sole 24 Ore, raccoglie appunto alcuni stimoli che sono arrivati, che gli arrivano come sempre da lettere dei lettori e parla dell'Italia come di un paese che potrebbe anche guidare quella, citando il rapporto che vi ho detto pubblica oggi il Sole 24 Ore sui rapporti degli europei con le istituzioni europee, un paese, dice, scrive Napoletano, con le carte in regola, l'Italia, per guidare il processo complicato che conduce agli Stati Uniti d'Europa e assicura a tutti una prospettiva duratura di crescita e di benessere. Bisogna crederci, bisogna essere coerenti, dobbiamo dimostrare di esserne all'altezza. L'apertura e la storia di copertina del Domenicale è in realtà una stroncatura come raramente ho visto in queste proporzioni e con questa enfasi, è la firma Armando Massarenti all'ultimo libro di Roberto Calasso, il fondatore della Delphi, che si intitola Il cacciatore celeste, appena stato pubblicato. Il titolo dell'articolo è Sotto le stelle della caccia, questo è il sommario. Calasso racconta la storia dell'uomo unendo i miti e i riti alle spiegazioni di paleontologi e genetisti. Il risultato è scientificamente e filosoficamente implausibile. Dalle pagine interne della Domenica del Sole 24 Ore anche un altro tema a proposito di pregiudizi, di credenze sbagliate basate magari su dati sbagliati, è sostanzialmente la recensione di un titolo di un libro, Chi ha paura dei vaccini, di Andrea Grignollo, la firma Paolo Legrenzi, Il ceppo del pregiudizio, l'irrazionalità contro i vaccini. Più che ricorrendo all'autorità della scienza, le false credenze vanno combattute con la psicologia e con la buona logica. Sapete che è una polemica che va avanti da molto in America, la situazione è molto più grave che qui, perché sono veramente tante le persone che pensano che i vaccini abbiano più svantaggi che vantaggi, i vaccini dei bambini. Qui da noi in Italia abbiamo avuto Red Ronnie, il famoso medico scienziato Red Ronnie, che è andato in televisione da Virus di Porro a spiegare che i bambini non vanno vaccinati, per dirmi insomma che anche qui purtroppo si dà spazio a queste idee, o meglio è giusto dare spazio a tutte le idee, basta che poi ci sia qualcuno, uno scienziato in questo caso, che spiega le ragioni invece a favore delle vaccinazioni. La lettura del Corriere della Sera, la prima pagina è come sempre, la copertina è come sempre affidata a un artista, questa settimana è Taryn Simon. E poi vi segnalo l'articolo subito a pagina 2 di Serena Danna, che si chiama Le ragazze guerriere. Prende spunto un po' da tutti questi film dove ci sono queste eroine, quindi Hunger Games, Star Wars, l'ultimo video di Beyoncé, lo sapete, Lemonade. La cultura pop propone donne capaci di controllare appieno la propria vita, lontano dagli stereotipi, persino con la forza fisica e i superpoteri. Le differenze di genere ne escono rivoluzionate e il web veicola così nuove rappresentazioni del femminismo. Questa è l'opinione di Serena Danna. Poi appunto, che se leggete l'articolo, ci sono anche tanti riferimenti sia di libri che di romanzi che di serie TV che di film, e ognuno può farsi la sua idea. Io personalmente non penso che questo sia un nuovo femminismo, ma appunto è giusto parlarne. Sempre dal Corriere della Sera un lungo articolo di Vincenzo Trione, il critico artistico che è stato anche curatore dell'ultimo della Padiglione Italia, dell'ultima Biennale d'Arte di Venezia, che ha intervistato Maurizio Cattelan, forse più famoso artista contemporaneo italiano. Sedetevi qui, sono tornato. Alla vigilia di un nuovo evento, l'artista veneto spiega perché si era fermato, perché aveva addirittura detto che appunto non avrebbe più creato, non avrebbe più fatto mostre, poi in realtà ha cambiato idea. Maurizio Cattelan ha raccontato a Vincenzo Trione: mi sentivo alla deriva e ora eccomi al Guggenheim. Ma le provocazioni, questa è una citazione, un vero virgolettato, sono delle bombe Molotov, ne funziona una su 10. È appunto un'intervista molto lunga che trovate alle pagine 30-31 della Lettura. Bellissimo questo approfondimento su Outlaw Pete, che è un libro appena uscito da Mondadori, scritto da Bruce Springsteen e illustrato da Frank Caruso. Lo spunto è questa ballata di Pete scritta da Bruce Springsteen e poi corredata dai disegni di questo disegnatore americano. La Domenica della Repubblica invece è dedicata a un inedito di Truman Capote, il piccolo Truman. Prima di diventare grande, Truman Capote scrisse dei brevi racconti, solo ora ritrovati e per la prima volta pubblicati. Appunto ce n'è uno in anteprima sulla Domenica della Repubblica. Il Messaggero, il supplemento macro, dedicato a Ned Markosian, un filosofo che ha tenuto una lectio magistralis al Festival delle Scienze. Misteri dell'universo, è una questione di tempo. Sostengo la teoria dinamica contro quella statica. Il passare degli anni è progressivo e irreversibile. Difficilissimo spiegare questi argomenti a metà tra fisica e forse filosofia e religione a un pubblico appunto che magari non ha una formazione così tecnica, e questa è la grande sfida della divulgazione scientifica. Purtroppo era l'ultima segnalazione che riesco a farvi per oggi. Ancora una buona domenica da Giulia Crivelli e un grazie a Carmelo Lauricella in regia che mi ha tenuto nei tempi.